maggio e te caria non sine, a schiocca, lì c'era se rossa, fresca era l'aria e tutta luciardina adorava de rosa a cento passa. Dolce una brezza, chiara e freccicosa, scendeva a piombo ritte smaniosa. Aria pungente, fredda e calurosa, e chiove fierra a punta croce. E mo, otto noviente, curtiella ti s'inganna, tagliente m'accarezza e vena. Frate penitenze, compagne transumanze, a sperdere ma porta rai, perché io moro per te. Ci sono destini e destini che ci attendono e svolte molte ci sono, una per ogni orizzonte, una per ogni mano e fegato, ce n'è una per ciascuno di vita intendo, di minuti ed ore e giorni ed anni e millenni, di respiri e distanti a mezzo fiato, rinunciati e lisi, di cuori senza cuore, di vite feroci e grigie, di sventagliate, di mattinate e mattinate divise, ma certo forse sarà pace o forse sarà guerra ed è di poco conto e certamente per vivere dovevi sperimentare, per vivere dovevi essere ingannata, ora che hai fatto tutta l'esperienza, ora che sei pronta, ora che ti protegge tutta la diffidenza e resta più solo da vivere o di nuovo poter essere ingannata. Voglio dire, il nostro e il loro, incomunicabili e intrecciati, a far osso duro, crosta, cartilagine spigolosa e puntuta, scheletro d'osso e diamante, e a darle nome storia. Ma la mia e la tua, intendo, e poi la loro, la grande, la virtuale, vera, la storia. Ma la misera nostra, che chiamiamo vita, e ora virtualizziamo a morte la nostra piccola rivoluzione portatile, solubile, maneggevole, quotidiana, da piazzare a rate di sopravvivenza e muta. Ehi, ehi, ragazzi, la vita non è poi così preziosa, sentite le condizioni, tribolare, emigrare, ammalare, ospedali, camorre, prigioni. Ehi, ragazzi, la guerra non è poi tanto cattiva, almeno nelle antiche storie alla fine si moriva. L'esistenza nostra cucciola e briciola, l'esistenza nostra ignorata, dico refusata, scartata, consumata, rottamata, sprecata, investita. L'esistenza nostra puledra e scintilla, ora imbalsita, trottata, domata, macellata, divorata. E l'attimo preciso qual è stato? Quale il respiro, il lampo di luce a confine? Quale la fine, il termine, il nome impronunciabile e pronunciato che ci ha trasformati in un già detto, in un già fatto, in storia della nostra storia, in moria epidemica? O dei tanti uomini che potevo essere, o dei tanti uomini che sono stato, se questo solo superstite è il mio men necessario, perché continua ancora ad oscillare verso i tanti uomini che potevo essere, i tanti uomini che non sono stato? E questa globalizzazione mondializzante dell'esperienza, sono queste multinazionali del sentimento forse a frusciarmi via dalle dita la certezza d'esser vivo, e invece mi sento affogare, affondare nel fondo esistenziale internazionale, e sconto tassi folli d'eversione e devianza dalla fascia di parità dell'essere. Patisco ingiustizie strutturali e continui colpi al cuore, cirrotizzazioni del fegato, infarti al muscolo apoplettico e risa e singhiozzi. Sicuro che son tutto vivo, braccia, gambe, c'è tutto, posso fare anche un salto, vedi? Ma l'anima non può più saltare, ci sono delle parti immobili da tanto che forse son già morte. Provi te, cara, a sentir se rispondono ancora. E se ci aggiungi i giorni, i mesi, gli anni passati a scrivere e a parlare, a dire e a protestare, a correggere le bozze al mondo, allora vedi che che non mi restano che le tue fantasmagoriche natiche e il tuo respiro affannato a cosce intrecciate, mentre mi sbilancio su di te colpo dopo colpo, mentre precipita su noi tutto il tempo e universa di stelle questa vecchiezza sua definitiva nella stretta tua che s'apre alla morte che c'è stata estratta in sorte. Esprimere, esprimere, cosa perdi tempo a vivere? Sono morti senza parlare i poeti che hanno vissuto, ma è appunto perché non posso vivere, o se potessi vivere, cosa mi importerebbe di parlare? O invece cosa mi importerebbe, dimmi, di vivere? Se davvero anche solo per un attimo potessi parlare, se anche solo per un istante, istantaneamente, dalla voce si scollasse una parola suono eterna e senza corpo, se anche per una volta sola potessi davvero dirmi, dirti, dirci tutto quanto c'è da dire, dirmi, dirti, dirci, gutturale per gutturale, labiale dopo labiale, dittongando ogni senso e raddoppiando alla potenza X ogni sibilante che si incorpora e smuore. Ogni tanto dalla sua poesia si stacca una vita, ogni tanto dalla sua vita si stacca una poesia. Se la sua poesia è bella ha torto la mia, ma la sua vita non può aver ragione perché avrebbe torto la mia, dunque è brutta la sua poesia. Ma poi lo sai, vivo e parlo e scrivo e muoio più o meno come tutti, più o meno respiro dopo respiro, più o meno col cuore a finanziamento agevolato, lo sai, sconto il mio e la parte mia di quello di tutti, più o meno timbro il mio sentimento settimanale, più o meno destino al futuro il mio destino, più o meno mi acrobato sul filo di sorti e lingue come tutti, più o meno firmo il mio contratto giornaliero d'esistenza e resto in ascolto del rombo che verrà.